Steve a mis au point différents réservoirs. E ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Bentornati alla finestra sul cortile. È un'estate tutta al femminile, questa estate 2009, e sono le donne a occupare i titoli di prima pagina dei giornali. Donne da primato e donne da gossip. Federica Pellegrini e Alessia Filippi ci entusiasmano con le loro vittorie in piscina, ragazze che ci fanno sperare in un'Italia migliore. E poi ci sono anche altre donne protagoniste di imprese meno esaltanti e meno nobili che fanno tremare i palazzi del potere. Di sport e di gossip parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma intanto ascoltiamo che cosa prevede il nostro sommario. Francia, corpo e mente. In un libro, la storia del rapporto tra sport e filosofia. Stati Uniti, avete un dubbio? Chiedete alle formiche. I piccoli insetti sono più bravi dell'uomo a prendere decisioni razionali. Giappone, strategia del sorriso per i dipendenti della compagnia ferroviaria nipponica. Stati Uniti, sesso, scandali e celebrità, quando le cortigiane diventano scrittrici. Africa, un muro di 7.000 km per contenere il Sahara, è l'ultima idea per separare il deserto dalle zone verdi. Germania, conti in rosso per un hotel bavarese, colpevole di essere troppo vicino al nido delle aquile di Adolf Hitler. Lo sport come materia filosofica sembra così una impresa un po' bizzarra, un po' assurda, ma è quella che hanno tentato un gruppo di filosofi e studiosi francesi guidati da Denis Moreau e Pascal Taranto, che hanno pubblicato un libro dal titolo Activité physique, exercice spirituel, attività fisica, esercizi spirituali, che cerca per l'appunto, attraverso una serie di saggi e di analisi anche molto rigorose e molto difficili, di capire qual è l'essenza dello sport e qual è soprattutto il rapporto tra l'attività fisica e quella intellettuale. Di questo libro, pubblicato da Vrin, l'editore parigino, parla la rivista francese La Vie des Idées. In questo articolo ci fa notare che appunto abbiamo negli ultimi decenni sperimentato tutta una letteratura sia giornalistica e sia sociologica che tendeva a denigrare lo sport come business, a partire insomma dall'intervento sempre più massiccio degli sponsor, dagli scandali del doping a quello di Calciopoli, compensi milionari dei calciatori, gli episodi di corruzione. Quindi in qualche maniera quest'opera rappresenta una svolta, cioè ci sono degli intellettuali che hanno deciso di prendere lo sport sul serio e di illuminarmi negli aspetti più nobili e non quelli più deteriori. Per esempio, cioè in questa opera si parla, tutti questi autori anzitutto sono, oltre che dei filosofi, anche degli sportivi, e quindi in qualche maniera associano il rigore della ricerca con l'esperienza personale, la vita vissuta. Ma in questi saggi si parla per esempio del rapporto tra potenza e atto in Aristotele, della padronanza di sé secondo i padri della Chiesa, della importanza della maratona nel pensiero di San Paolo. Ancora l'atteggiamento di Platone nei confronti delle attività della palestra, insomma l'importanza di coniugare la riflessione, lo studio e la ricerca con la cura di sé. Ecco, di queste cose parleremo con un ospite che abbiamo in linea e che ringraziamo, Marco Belpoliti, benvenuto alla Finestra sul Cortile. Salve. Marco Belpoliti, scrittore e critico letterario e autore tra l'altro di un libro che è uscito recentemente da Guanda, che ha fatto un certo rumore, intitolato Il corpo del capo, dedicato un po' al fenomeno Berlusconi. Ma qui vogliamo parlare soprattutto di sport. Siamo in questi giorni molto colpiti dalle imprese di queste nostre nuotatrici, Alessia Filippi e Federica Pellegrini, e nelle loro interviste cogliamo molto questo aspetto, questo legame, insomma, tra la prestazione atletica e la preparazione psicologica, no? Perché questa Alessia Filippi, per esempio, dice: ah, io in piscina sono un killer, divento molto più cattiva. E Federica Pellegrini che dice: ero spenta ma l'allenatore mi ha svegliata. Ecco, che importanza ha questa formazione, diciamo, psicologica nella preparazione di un atleta, insomma, e quindi che legame c'è tra lo sforzo fisico e la concentrazione mentale? Ma io penso che il corpo sia diventato un'estensione della mente, della psiche, dell'anima, chiamiamola come vogliamo, cioè direi che è come se avessimo la psiche tutta sulla pelle, ecco, fuori, non più dentro. Insomma, siamo passati da, diciamo così, da un mondo che puntava sull'interiorità, l'anima, la riflessione, la psiche, qualcosa che andava scandagliato. Oggi è tutto fuori. Insomma, la cosa che colpisce molto di queste nuotatrici, e per chiunque va in una piscina, si accorge che sono tutti depilati e tatuati. Ecco. Certo, infatti la Pellegrini mostra molto i suoi tatuaggi. Sì, sono... diciamo, quello non è il corpo, non è più il corpo nel senso tradizionale, quello è l'estensione della psiche, ecco, quindi per cui aggressività oppure indolenza, atteggiamento rabbioso oppure atteggiamento passivo, tutto si svolge sulla superficie del corpo. Certo, quindi in sostanza, però c'è anche un altro aspetto, insomma, che è molto importante, questo superamento dei propri limiti, no? Su cui continuamente ritornano nelle loro interviste. Sono andata oltre, quando ero a 300 metri ero morta, però poi desideravo intensamente questa vittoria e quindi ce l'ho messa tutta, e quindi c'è un po' un tentativo di forzare continuamente i limiti del sé, no? Del proprio corpo. Ma io lo vedo, insomma, dal punto di vista di Hannah Arendt. Hannah Arendt ci ha spiegato in Vita Attiva che ciò che è dominante oggi è il lavoro, ecco, l'etica del lavoro, il lavoro come realizzazione, il lavoro come sforzo, direi il lavoro come elemento meccanico. Ecco, le frasi che lei citava sono, diciamo così, una meccanizzazione dello sport e del corpo stesso. Non è più l'azione, ecco, l'azione è contemplazione, il suo posto, insomma, diciamo, in questa coppia. Direi che il lavoro domina completamente, insomma, non c'è tempo libero, tempo di lavoro, anzi il tempo libero ormai è stato dominato completamente, è diventato esso stesso un tempo di lavoro. Mi sembrano due grandi lavoratrici queste due ragazze e cercano di avere delle performance. Ecco, questa è una parola chiave del contemporaneo, che è una parola che riguarda anche l'arte, cioè l'artista che compie una azione performativa, un'azione che cambia qualcosa intorno a sé, anche forse soltanto un'azione con una dichiarazione. Ecco, Obama detto: è finita la recessione, questa certo. È già performativa. Ecco, la performance è l'elemento lavorativo vitale anche dentro l'acqua della piscina. Ecco, in questo libro si ritorna molto sui testi dei padri della Chiesa e si ricorda che nella cultura cattolica, nella cultura cristiana, lo sport, inteso come esercizio fisico, rappresenta un modello esemplare di padronanza di sé. E difatti, insomma, pensiamo anche così, le scuole cattoliche che ti portano i ragazzi in montagna, no? Cioè, c'è questa idea, insomma, che in qualche maniera lo sforzo nobilita e avvicina a Dio. Beh, intanto questo è un portato della filosofia greca dell'ultimo, insomma, la Stoa, i cinici, insomma, dell'ultimo periodo, è quello che a scuola abbiamo studiato come l'ellenismo, che è diventata il vero contenuto della filosofia cristiana, ecco, quello del miglioramento di sé attraverso questa sorta di esercizi, tra cui anche questo dell'aspetto fisico. D'altro lato, insomma, nell'Ottocento per curare le malattie nervose, si andava in montagna, si camminava, l'esercizio fisico per scaricare anche le tensioni, ad esempio le pulsioni sessuali, pulsioni aggressive, insomma. Direi che la Chiesa, il cattolicesimo, scopre qualcosa che era già noto al mondo classico, lo rilancia e cerca anche di spiritualizzarlo, non sempre ci riesce. Direi che fa fatica, insomma, il pensiero cristiano a tenere uno spazio in questo mondo dominato dal materialismo del lavoro. Bene, noi ringraziamo Marco Belpoliti, buona estate e a presto. Anche a voi. Can't decide, ask an ant, è il titolo di un articolo di Science dedicato a problemi delle decisioni collettive. Ask an ant potrebbe far pensare chiedi a tua zia, ma in realtà ant in questo caso è la formica. E come mai questo riferimento alle colonie di insetti? Perché secondo gli studiosi le formiche, come soggetto collettivo, hanno un comportamento a volte molto più razionale degli umani. Infatti un ecologista comportamentale dell'Arizona State University, Steven Pratt, ha fatto un esperimento creando delle strutture che potevano diventare dei nidi per 26 colonie di formiche. Poi ha fatto dei raffronti tra i diversi comportamenti di queste varie collettività. Per esempio, appunto, ci sono alcune colonie con alcuni siti con più bui, con un'apertura più larga, altri più luminosi, con un'apertura più piccola, e le formiche facevano le loro scelte in maniera molto razionale. E quindi, insomma, in qualche maniera anche le formiche nel loro piccolo ci insegnano qualcosa. E adesso andiamo in Giappone, dove nelle stazioni ferroviarie si sta sperimentando una nuova strategia, la strategia del sorriso. Per esempio, alla stazione Shinagawa, nel centro di Tokyo, gli impiegati e gli addetti sono sottoposti a un test. Si mettono davanti a un computer con una telecamera e devono sorridere, e hanno un punteggio a seconda della rilevanza e dell'efficacia del loro sorriso. In una stazione come Shinagawa, dove passano ogni giorno 250.000 passeggeri, anche il fatto di trovarsi un impiegato, un ferroviere, un bigliettario che ti sorride può essere di aiuto. Certo, in Giappone i treni funzionano, arrivano e partono, arrivano sempre in orario. Su Trenitalia, quando l'Eurostar è in ritardo di 2 ore, hai voglia di sorridere. E adesso c'è una breve pausa, ci risentiamo tra poco. La finestra sul cortile. Sesso, scandali e celebrità non sono una novità dei nostri tempi, sono una lunga tradizione che risale al Settecento, e un articolo su History Today di Jolly Pickman fa un po' una carrellata delle maggiori opere letterarie e soprattutto delle memorie che riguardano storie di prostitute, di cortigiane, di donne dalla dubbia reputazione che nei loro libri in qualche maniera si sono vendicate degli uomini che le hanno sfruttate o maltrattate o ripudiate. E quindi questo tipo di questo genere letterario è ricchissimo. Per esempio, si parla di questo personaggio, Sally Salisbury, vissuta tra il 1690 e il 1724, che era figlia di un muratore inglese e che faceva per l'appunto la prostituta, ma era legata, era diventata l'amante anche di grossi personaggi dell'aristocrazia inglese, per esempio questo John Finch, il figlio figlio del secondo Earl di Nottingham e che era stato appunto da lei aggredito con un coltello, e proprio in seguito a questo tentativo di omicidio era stata messa in prigione, e dove morì di febbre. Ma Finch aveva tentato fino all'ultimo di liberarla, avendole perdonato anche questo suo gesto. E poi ci sono altre storie più recenti, per esempio di Harriet Wilson, una cortigiana vissuta nella prima metà dell'Ottocento, e che Walter Scott aveva descritto come una smart saucy girl, una ragazza vispa e intelligente con le maniere di uno scolaro indisciplinato. E nelle sue memorie la Harriet Wilson tentò in qualche maniera di ricattare tutta una serie di personaggi che, data la loro rilevanza sociale, temevano di essere nominati e quindi messi alla berlina. Ma su questo fenomeno culturale, insomma, delle autobiografie delle prostitute, che in qualche maniera rimandano anche ai fatti dei nostri giorni, ai giornali pieni di gossip, alle storie di Britney Spears nei paesi anglosassoni o delle patrizie d'Addario da noi, abbiamo al telefono un ospite che salutiamo e ringraziamo di essere con noi. Grazie Daria Galateria, benvenuta alla Finestra sul Cortile. Salve. Daria Galateria, scrittrice e francesista. Ecco, lei conosceva queste memorie, questi libri che vengono citati in questo articolo di Jali Pickman? Inutile dire che si tratta di un articolo divertentissimo. Lei citava ultimamente queste due cortigiane che avevano scritto una contro l'altra, ma avevano avuto in passato una solida amicizia, avevano vissuto per esempio presso lo stesso protettore a Bloomsbury House, pagate da questo marchese. Sì, il marchese di Lorne. Esatto, che quindi si avvantaggiava delle grazie di entrambi. Che non è male. Inutile dire, racconti molto piccanti, storie di cortigiane, e se posso mostrare un punto di vista forse diverso da quella di Julie Pickman, è vero che nel Settecento nasce questa moda delle autobiografie, diciamo, delle prostitute, delle cortigiane, ma è anche vero che erano le uniche donne ad avere una vita abbastanza interessante e abbastanza intelligenza da poter scrivere delle loro vite. Erano proprio le uniche donne non ridotte a quella vita spenta e virtuosa, certamente, ma molto opaca, che destinava loro la nostra civiltà, non è vero, in altri certo. Sì, quindi senza mancare di rispetto a nessuno, ovviamente, potremmo paragonarle alle soubrette di oggi, insomma. Dato che allora non c'era la televisione, l'unico modo per mettersi in mostra era fare questo mestiere. Ci sono personaggi di grandissima qualità però tra queste scrittrici, proprio grandissime. Quando nell'Ottocento ormai il poeta Baudelaire deve scegliersi una compagna, vive con una prostituta proprio di strada, che è una mulatta, e casomai con una demi-mondaine come la presidente, ma insomma erano le uniche persone veramente fascinose e soprattutto colte. Quando per esempio la Duplessis, che è la signora delle camelie, che aveva questo nome come ognuno sa perché metteva una camelia rossa nei giorni in cui non poteva incontrare i suoi corteggiatori, e quando viene lasciata da Alexandre Dumas fils perché non se la poteva permettere, il padre lo aveva aiutato economicamente, ma lui a un certo punto le scrive un biglietto: io non sono abbastanza ricco da potervi amare come vorrei io, e non sono abbastanza povero da essere amato come vorreste voi, perché lei lo vorrebbe utilizzare come un giocattolo. Certo. Intanto si intrattiene con signori più interessanti dal punto di vista venale. E allora e ne nasce appunto questo meraviglioso romanzo. Il giorno in cui lei viene lasciata da Alexandre Dumas figlio, la signora delle camelie va a teatro, si siede accanto a Liszt e in modo piuttosto altero gli rivolge la parola. Liszt rimane immediatamente fulminato e nasce quest'altra storia. Non è che a Parigi non ci fossero degli uomini più ricchi, non è vero, però lei voleva proprio, sia per pubblicità sia proprio per gusto, frequentare persone interessanti. Sì, quindi insomma, spesso le erano giane come le sante sono le donne che hanno una vita interessante, e quindi si capisce che le biografie, le memorie che leggiamo di donne dell'epoca sono per lo più libri di prostitute. Certo, ecco, ma come lei giustamente faceva osservare, insomma, spesso queste figure, insomma, andavano al di là di un ruolo puramente sessuale, diventavano come delle etere, se vogliamo, delle muse ispiratrici per gli intellettuali o per persone, insomma, poeti come Baudelaire, eccetera, no? Questo è un po'... Mentre invece mi pare che nell'interpretazione di questo articolo, che è un'interpretazione un po' in chiave femminista, cioè dice, beh, queste memorie sono un modo di queste donne per rivendicare un proprio ruolo nella società, no? E non continuare a essere sfruttate, represse e discriminate. Da una parte ci sono delle tradizioni proprio letterarie che vengono rispettate in modo sospetto, cioè tutta la tradizione di Defoe, Maupassant, eccetera, quindi queste Pamela, le ragazze che vengono violentate da piccole, che quindi esatto, poi finiscono, ecco, la prigione per debiti, eccetera. Però in parte queste storie sono vere, ma quello che rende particolarmente fascinosi questi racconti, a parte le storie degli stupri che sono sempre fascinosissime, oppure altre forme di racconti intimi, e c'è il fatto che incrociano certamente la politica e la letteratura. Bene, noi ringraziamo Daria Galateria, buone vacanze, buona estate, a presto. Grazie. E ora ci spostiamo in Germania, per la precisione sulle Alpi Bavaresi. L'Intercontinental Berchtesgaden Resort è un hotel tedesco da 5 stelle, costato 50 milioni di euro, aperto 4 anni fa, con un organico di 150 dipendenti e una suite presidenziale da 1000 euro a notte. In una posizione come quella in cui si trova ci sarebbero tutti gli ingredienti per attirare il turismo di lusso, eppure con i suoi 15 milioni di perdite la scommessa del Land bavarese, proprietario indiretto del resort, si è rivelata un fiasco. Il motivo si chiama Adolf Hitler, perché chi si rilassa nell'Intercontinental, volente o nolente, deve pensare al Führer, perché negli anni 30 proprio qui su queste Alpi c'era il famigerato nido delle aquile. Quindi un fallimento annunciato, quello del Berchtesgaden Resort. Come i molti critici del progetto avevano fatto presente già da tempo, wellness e nazismo non vanno molto d'accordo. E andiamo in Africa, sulle pagine del País, del quotidiano spagnolo Il País, apprendiamo che un architetto svedese, Magnus Larsson, ha avuto una idea piuttosto curiosa, cioè quella di costruire un muro di 7000 chilometri per contenere il Sahara e bloccare la desertificazione. Il problema della desertificazione è uno dei flagelli delle emergenze più gravi del continente africano, che minaccia un terzo della popolazione del pianeta, quasi 2 miliardi di persone. L'immaginoso architetto svedese ha pensato di costruire questo grande muro, ma non con il lavoro degli uomini, facendo lavorare un batterio che metterebbe, in qualche maniera salderebbe le granelli di sabbia del deserto, facendoli diventare come cemento. La grande muraglia verde si potrebbe chiamare. Meglio non divulgare troppo il progetto, perché l'Italia è piena di gente ansiosa di costruire muri, non per trattenere il deserto, ma le persone. E per oggi è tutto. Ringrazio Daniele Casagrande e Vittoria Mussini in redazione, Giorgio Matè in regia e tutti voi per l'ascolto. Sarò di nuovo con voi sabato 12 settembre. Durante il mese di agosto vi riproporremo una selezione delle migliori interviste della stagione passata della Finestra sul Cortile. Riccardo Chiaberge vi saluta e vi augura buona estate.